GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una nuova sistemazione per i cosiddetti invisibili della Cavarzerani, i migranti esclusi dal circuito dell'accoglienza, costretti a bivaccare in una zona dismessa dell'ex caserma. Vertenza Varzila, primo confronto in presenza a Trieste dopo la presentazione del piano industriale di MSC per lo stabilimento di Bagnoli. Scuola, sciopero dei Cobas nel giorno delle prove in Valsi, prove inutili, sostiene il sindacato, che è anche contro l'autonomia differenziata. Verso le elezioni amministrative, 220 candidati sindaci, ma solo un quarto sono donne. Incontro a Remanzacco con la prima cittadina in lizza, stavolta da sola, per il terzo mandato. Addio a Beppe Liani, morto a 68 anni, giornalista udinese a lungo nella redazione regionale della RAI. Da domani l'adunata nazionale degli alpini a Vicenza, pronte a muovere le penne nere della regione. Il tesoro di Erpelle, ritrovato due volte, la romanzesca storia di oltre 5.000 monete di epoca medievale, raccontata da una mostra che si apre a Trieste. I guardiani del Giro d'Italia, nella sede della Protezione Civile, la riunione operativa con i sindaci dei 24 comuni che attraverserà la tappa Mortegliano-Sappada. Sono le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. Vengono trasferiti in queste ore circa 150 migranti che a Udine erano costretti a bivaccare in una zona dismessa dell'ex caserma Cavarzerani, al di fuori dei percorsi di accoglienza. Una situazione di estrema precarietà che era stata denunciata dalla rete d'Asi. Lo aveva fatto intendere nei giorni scorsi che il problema dei circa 150 migranti alloggiati nella cosiddetta moschea all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Via Cividale a Udine sarebbe stato risolto. Così questa mattina il prefetto del capoluogo friulano, Domenico Lione, ha provveduto a farli spostare. 47 di loro sono stati trasferiti a cura del Ministero dell'Interno in altre province, 25 alla Brigata Re, 56 aventi diritto sono rimasti all'ex caserma Cavarzerani, mentre altri 40 sono stati portati in questura per accertare la loro posizione. Con questi trasferimenti la cosiddetta moschea all'interno dell'ex caserma è stata così sgomberata del tutto. Potenziato anche il servizio di vigilanza da parte delle forze dell'ordine, con passaggi più frequenti anche dell'esercito su tutto il perimetro esterno della struttura per scongiurare ingressi abusivi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi del lavoro e dell'economia è ancora in corso a Trieste, il confronto sul piano di reindustrializzazione del comprensorio Varzila di Bagnoli della Rosandra, nel quale MSC realizzerà e revisionerà carri ferroviari. Doppio incontro di sindacati e Confindustria, prima con la multinazionale finlandese, poi col gruppo protagonista della logistica. Di fronte questa mattina al tavolo nella sede di Confindustria a Trieste le parti sindacali e Varzila, che sta continuando la sua interlocuzione con MSC per trovare l'accordo per la cessione delle aree dello stabilimento produttivo. L'ipotesi è quella di un affitto di lungo periodo, 5-10 anni, di una palazzina per la parte impiegatizia e per quella destinata ai test sui nuovi carburanti. L'accordo dovrebbe essere raggiunto nei primi giorni di giugno, ma ad oggi, confessa Alessandro Gavagnin della CISL, non ci sono conferme sulla data di chiusura dell'accordo. I sindacati denunciano molta confusione sui numeri dei lavoratori, si è sempre parlato di 300 coinvolti dal passaggio ad MSC. Inoltre le organizzazioni sindacali chiedono a Varzila che al prossimo incontro venga illustrato un piano industriale nuovo, ovvero che vada oltre la scadenza del 2025, che si riferisce a quello presentato oltre un anno fa e che parta dalla data di firma di un ipotetico accordo di programma. Il piano invece di MSC, ricordiamo, con un investimento di 104 milioni di euro, riguarda la produzione a regime di 1.000 carri ferroviari e 3.000 carrelli all'anno. La piena occupazione lavorativa prevista nel luglio 2025. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato inaugurato poco fa a San Daniele il nuovo sito produttivo di Lima Corporate, impresa del settore ortopedico specializzata in protesi innovative e tecnologie chirurgiche. Qualche mese fa l'azienda è stata acquisita dalla statunitense Enovis, società di tecnologia medica quotata alla borsa di New York. Lima ha sedi anche in Sicilia e a New York, conta circa 1.100 dipendenti. Con l'ultimo Recruiting Day sono stati selezionati una settantina quarantina di nuovi addetti da inserire nello stabilimento appunto di San Daniele. Sciopero generale della scuola oggi in tutta Italia, indetto dai Covas contro le prove Invalsi e l'autonomia differenziata in discussione in Parlamento. In regione il sindacato parla di buona adesione nelle province di Trieste e di Gorizia, dove conta il maggior numero di iscritti e dove in alcuni casi le prove Invalsi in programma appunto per oggi sono saltate. Alla primaria Duca d'Aosta di Trieste, gli insegnanti che hanno aderito allo sciopero sono riusciti a bloccare le prove Invalsi che erano in programma per oggi nelle due classi quinte della scuola. Gli alunni non sono nemmeno entrati in aula, prove saltate anche in due quinte e una seconda della primaria Vittorino da Feltre di Ronchi dei Legionari, dove hanno scioperato sei insegnanti e una collaboratrice scolastica. Nel darne notizia al portavoce del sindacato Cobas a scuola di Trieste e Gorizia, Davide Zotti, già parla di obiettivo centrato e si dichiara soddisfatto. La protesta nazionale di docenti, personale alleata e dirigenti convocata da USB Unicobas, dai Cobas Scuola e da altre organizzazioni sindacali di base è stata indetta proprio nella giornata in cui nella scuola primaria si svolgono le prove Invalsi con l'intento di farle saltare. 20 anni di quiz inutili e dannosi non hanno migliorato la qualità della didattica, affermano critici i promotori dello sciopero che si battono per abolire gli Invalsi sin da quando vennero introdotti come metro di giudizio degli studenti e del lavoro di docenti e scuole. La giornata di proteste è anche contro l'autonomia di la riforma in discussione in Parlamento che devolve molti poteri dello Stato centrale alle regioni, considerata dai sindacati di base distruttiva per la scuola perché porterebbe alla frantumazione del sistema unitario di istruzione. Il bilancio complessivo dell'adesione allo sciopero in regione si conoscerà a fine giornata. Il portavoce Zotti stima che possa essere buona nelle scuole giuliano-esontine, dove Cobas a scuola conta un centinaio di iscritti tra personale docente e ATA sparsi in circa una cinquantina di istituti. Una rappresentanza di manifestanti dalla regione stamane ha preso parte al presidio davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Le notizie di cronaca: un 28enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Udine dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Deve scontare ancora una parte dei 2 anni e mezzo di pena per aver fatto parte di un racket attivo nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica. Altri 3 arresti effettuati dagli uomini della questura udinese riguardano rispettivamente un 36enne romeno che deve scontare 4 anni e mezzo per droga, furto aggravato e maltrattamenti in famiglia, e 2 cittadini afghani irregolari in Italia condannati per fatti di droga. Proseguono a Trieste i controlli contro l'occupazione abusiva degli alloggi popolari, l'ultimo in ordine di tempo quello effettuato da parte della polizia locale nel complesso Ater di via Grego nel rione di Borgo San Sergio. In diversi appartamenti sono state trovate tracce di bivacchi e in un'abitazione sono stati trovati 2 occupanti abusivi che sono stati denunciati. 10 gli appartamenti verificati che sono stati chiusi e messi in sicurezza dagli operatori Ater. L'azienda potrà ora avviare i necessari interventi di bonifica e di ripristino. La politica: oltre 220 i candidati alla carica di sindaco in Friuli Venezia Giulia alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, ma 3 candidati su 4 sono uomini. A Remanzacco c'è una sindaca che indossa la fascia tricolore da 10 anni e che corre per il 3º mandato. Il suo unico sfidante è il quorum. Alle spalle la grande fotografia del presidente Sandro Pertini, che definisce il padre politico di tutti noi, e subito accanto, più piccola, la fotografia di lei accanto alla partigiana della resistenza Paola Del Din. Mi hanno sempre colpito la sua forza e la capacità di parlare con i giovani, dice Daniela Briz, 60 anni, sindaco di Remanzacco, che corre per il 3º mandato, non ha sfidanti, combatto con il quorum, dice, poiché se non viene votata dal 40% dei suoi cittadini il comune sarà commissariato. Noi siamo qui con la sindaca, è un peccato naturalmente se dovesse andare così. Esatto, è un peccato perché abbiamo già tanti progetti iniziati, altri portati a termine nella precedente amministrazione, per cui vogliamo nei prossimi anni terminare progetti e cantieri importanti come la scuola, la nuova scuola primaria. Abbiamo un master plan di riqualificazione del centro storico di Remanzacco. Scegliamo di analizzare il suo caso, sindaco, perché nelle amministrative del Friuli Venezia Giulia le donne candidate alla carica di sindaco restano poche, 60, un quarto del totale. Perché poche donne, secondo lei? Poche donne perché quando, insomma, sei sindaco di una comunità è un impegno che ti richiede dedizione, passione, messa a disposizione totale verso la tua comunità. Quindi molte volte sei costretto, insomma, a relegare in un cantuccio quelli che sono i tuoi impegni familiari. e non tutte sono disposte. Lei ha iniziato a far politica molto giovane, aveva 30 anni, non ha mai mollato, diventata mamma, ha proseguito. Non è stato facile? No, non è stato facile, ma come dico, io amo il mio paese. Quando ami il tuo paese sei disposta a tutte. Ho cercato di conciliare i tempi, impegno politico, lavoro e famiglia. Per una donna, come dicevamo prima, è molto difficile. Questo appunto può essere uno scoglio, una barriera affinché appunto le nostre donne, le ragazze, i giovani si avvicinino a questa mission. Remanzacco, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sicurezza, diritto di manifestare, legittima difesa, guerra e qualche replica alle polemiche. Affronta vari temi il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente con la Lega alle prossime elezioni europee, in un incontro pubblico in centro a Udine. Intervistato in una sala gremita, un centinaio di persone, secondo gli organizzatori, Vannacci oggi fa tappa nel capoluogo friulano nell'ambito del suo tour elettorale. È morto questa mattina il nostro collega Giuseppe Liani, giornalista che per oltre 20 anni ha lavorato alla redazione RAI del Friuli Venezia Giulia. Fra qualche mese avrebbe compiuto 69 anni. Un giornalista saggista con molteplici interessi, dalla storia alla filosofia del diritto, dalla politica allo sport. Giuseppe Liani è mancato questa mattina nella struttura protetta dove era accolto da alcuni mesi. Aveva 68 anni. La politica fu la sua passione giovanile nelle file del Partito Socialdemocratico. Dopo un'esperienza nell'Associazione Industriali di Pordenone, iniziò il suo lungo cammino nel mondo del giornalismo, dapprima nel quotidiano pordenonese del Gruppo Monti, poi nel Messaggero Veneto. Nel 1992 entrò in RAI al GR3. Un anno dopo fu trasferito alla redazione regionale del Friuli Venezia Giulia, dove ha lavorato dapprima a Trieste e poi a Udine. Volto e voce noti per telespettatori e radioascoltatori della RAI del Friuli Venezia Giulia. Era una garanzia per la sua capacità di occuparsi di qualunque argomento con grande rigore, nel rispetto dei canoni del servizio pubblico, con una passione particolare, il calcio, interpretato con quell'ironia che è stata il suo tratto distintivo nelle relazioni con amici e colleghi. E ha continuato a lavorare mantenendo una lucidità esemplare anche dopo il manifestarsi di una malattia neurodegenerativa. Era in pensione dal dicembre del 2016. Parallelamente al lavoro giornalistico, Liani ha portato avanti l'attività accademica, docente a contratto all'Università di Trieste e di saggista con numerose pubblicazioni. Si è occupato di storia antica, di religione, lui è stato un esponente della laicità positiva e di politica. In particolare si ricorda il libro Il peccato originale, accurata analisi del dibattito parlamentare che portò alla nascita della regione a statuto speciale. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste questa mattina la protesta degli operatori del centro di salute mentale di via Gambini, una struttura che conta circa 800 utenti ma che ha visto una drastica riduzione dell'operatività. La chiusura del servizio notturno del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste sarebbe una scelta precisa e non il frutto di mere ragioni organizzative o di budget. È la denuncia degli operatori del CSM che hanno aderito al 100% allo sciopero di 2 ore proclamato dai sindacati CGL e FIALS, con un presidio organizzato davanti all'ingresso della struttura. Al centro della protesta il mancato ritorno all'operatività H24. Da fine 2020, infatti, in piena emergenza Covid, l'orario di attività del CSM era stata ridotta a 12 ore per carenza di personale. Francesca Fratianni della CGL. Via Gambini è l'unico dei 4 centri che non è aperto sulle 24 ore. Abbiamo fatto un accordo a maggio 2023 con l'impegno dell'azienda di riaprirlo sulle H24 a ottobre 2023. Questo non è accaduto. Negli ultimi mesi la riapertura notturna era già stata assicurata sia ai familiari dei circa 800 utenti della struttura che ai sindacati. A marzo la data indicata era stata quella di fine estate. FIALS e CGL però restano dubbiosi, vista la cronica mancanza di personale in tutte le strutture di Asugi. Fabio Potocnig della FIALS. Oltre a portare la voce degli operatori abbiamo sentito anche i parenti degli utenti e anche loro hanno una necessità, riconoscono una necessità di avere il servizio sulle 24 ore. Chiederemo al direttore generale di incontrarci e affrontare il tema compiutamente, senza rimandare a sine die la soluzione. Se non sarà sufficiente ci rivolgeremo al presidente della regione Fedriga. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, cielo sereno su pianura e costa da nuvoloso a variabile in montagna, queste le temperature a Trieste, 19 gradi e 5 decimi, tiravento a 46 km orari da est-nord-est, bora con raffiche fino a 70 km orari, 22 gradi a Gorizia, 21 a Udine e Pordenone, 18 gradi e 5 decimi a Tolmezzo, 15 gradi a Tarvisio e Forni di Sopra, 14 sul Piancavallo e a Sappada, sullo Zoncolana 7 gradi, sul Monte Lussari 4 gradi e 5 decimi, 21 gradi a Grado, 21 e 5 decimi a Lignano. Le previsioni a cura dell'ARPA: oggi pomeriggio cielo poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata, a tratti anche sostenuta a Trieste sul Carso. Possibile qualche locale rovescio sulla zona montana, specie su Alpi e Prealpi Carniche. Domani cielo sereno poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata, specie al mattino a Trieste e sul Carso. Al via domani a Vicenza la 95esima adunata nazionale degli alpini. Sono attese 7.000 penne nere dalle 8 sezioni ANA della regione, ma la presenza regionale sarà almeno del doppio. Qualcuno è già partito, altri si apprestano a farlo. Sono 7.000 gli alpini delle 8 sezioni regionali che sfileranno alla dunata di Vicenza con i familiari, 15.000 le presenze attese dalla nostra regione. Incontriamo Ilario Merlin, presidente della sezione ANA di Pordenone, appena prima della partenza. Vi aspettate una grande rappresentanza dalla nostra regione? Assolutamente sì, ma non solo dalla nostra regione, ma anche da tutta Italia. Solo qua in regione noi abbiamo fatto una grossa fatica a trovare dei pullman, tant'è vero che ci siamo anche rivolti a ditte slovene, perché qua non si trovava un pullman neanche a noleggio, quindi io credo che sarà una donata molto partecipata, anche perché è nel centro del, diciamo, del reclutamento alpino. Vicenza ovviamente fa parte del reclutamento alpino ed è una base logistica abbastanza centrale, insomma è raggiungibile da tutti. In quanti alpini sarete della sezione di Pordenone e se ha un'idea della partecipazione regionale? Come sezione di Pordenone saremo presenti dai 1.800 ai 2.000, in base ai dati che ho io. Dopodiché a livello regionale secondo me arriveremo a 7.000 presenze, come alpini. Dopo ovviamente il dato è da moltiplicare per due per quanto riguarda accompagnatori, amici e simpatizzanti. Che cosa vi aspettate da questa adunata? Ma noi ci aspettiamo che finalmente ci siano 5 giorni di sole, perché non se ne può più della pioggia ovviamente. Noi ci auguriamo solo di veramente star bene, che nessuno si faccia male, che tutti siano in armonia con la città, con le altre persone e soprattutto con il mondo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, terza giornata del Festival Vicino Lontano a Udine. Vediamo una panoramica degli incontri di oggi. Hamas dalla resistenza al regime con Giampaolo Carbonetto e Paola Caridi alla Loggia del Lionello alle 18. Il docufilm Carlo Urbani, Ho fatto dei miei sogni la mia vita, sempre alle 18 alla Chiesa di San Francesco. Quale lavoro con Marco Bentivogli, Francesca Coin, Alessandro Somma, la Torre di Santa Maria alle 18.30. Lettere contro la guerra con Elda Baggio e Tommaso Montanari alle 18 a San Francesco. Salam Shalom con Alessandro Lussiane e Massimo Somaglino alla Fabbrica del Vapore alle 21. E infine Popoli sotto assedio con Paola Caridi, Damir Ovcina e Domenico Quirico di nuovo a San Francesco alle 21. Da oggi al Museo d'Antichità Winckelmann di Trieste vengono esposte al pubblico le monete del cosiddetto tesoro di Arpelle, un lotto di oltre 1700 monete medievali scoperte nel 1921 da un ferroviere nel territorio comunale di Arpelle Cosina, allora Regno d'Italia, oggi Slovenia. Le monete, che proverebbero l'esistenza del leggendario brigante Dobrila, una sorta di Robin Hood del folklore sloveno, andarono presto perdute e sono state casualmente ritrovate, riscoperte per una seconda volta, poco tempo fa, dopo 80 anni di oblio. Ce ne parla il numismatico dell'Università di Trieste, Giulio Carraro. È un tesoro di monete medievali, quindi tra 1300 e 1400, monete d'oro e d'argento, provenienti da varie zecche dell'Europa medievale. Sono così eterogenee e così diverse perché si tratta di una cassa di raccolta di una banda di briganti, probabilmente del famoso ladro Dobrilla, che operava appunto nella zona del Carso triestino. Sono state scoperte, riscoperte ad Arpelle nel 1921 da Giovanni Kolaric. Ci raccontano molte cose, le più importanti, il tessuto e i rapporti commerciali e mercantili dell'Europa medievale. Erpelle era un crocevia di rotte mercantili da e verso i porti del nord Adriatico. Nel 1921, quando sono arrivate al Museo di Trieste, sono state studiate dal conservatore Piero Sticotti, Giovanni Brusin da Aquileia e Antonio Morassi della soprintendenza. Misteriosamente, qualche mese dopo, le monete sono sparite, si sono perse le tracce e sono state riscoperte un anno e mezzo fa dalla conservatrice Marzia Viduldi. Erano nascoste in una cassaforte e stavano all'interno di una scatola di sigari in legno. L'ipotesi è che siano state nascoste per metterle al sicuro probabilmente prima del secondo conflitto bellico mondiale, a fine degli anni 30, inizio degli anni 40 del secolo scorso. Oggi si inaugura la mostra, che poi sarà aperta fino a settembre, e sarà possibile vedere esposte tutte le 1700 monete rimaste, perché è un terzo del nucleo iniziale, quello è rimasto e oggi superstite al Museo Winckelmann di Trieste. La pagina degli spettacoli, un concerto in parte sinfonico e in parte orientato al jazz, questa sera ricorderà al Teatro Verdi i 101 anni dalla nascita di Lelio Luttazzi, che fu compositore, direttore d'orchestra, musicista, personaggio poliedrico del palcoscenico. Nella prima metà sarà protagonista l'Orchestra del Verdi, diretta da Piero Mariti, con musiche di Gershwin e Bernstein, e poi spazio al pianoforte di Danilo Rea, interprete tra i più quotati del panorama jazzistico di oggi. L'organizzazione è del Teatro Verdi e della Fondazione Luttazzi, l'inizio alle 20. Debutta al Politeama Rossetti di Trieste, magnifica presenza di Ferzan Özpetek, un cast di primissimo piano e una protagonista in comune, Serra Yilmaz, per l'adattamento teatrale di uno dei film di maggior successo di Özpetek. Tra gli altri ci sono Tosca d'Aquino e Federico Cesari. Lo spettacolo sarà in scena al Rossetti fino a domenica. A Pordenone il Festival Terra E accoglie il fisico giocoliere Federico Benuzzi, che all'auditorium dell'Istituto Vendramini proporrà Separati in casa, uno spettacolo di divulgazione scientifica sui rifiuti e la raccolta differenziata, alle 20:45. Siamo allo sport. Il Giro d'Italia di ciclismo è in Toscana e affronta oggi la sesta tappa con lo sloveno Pogacar in maglia rosa e il bugliese Jonathan Milan, leader della classifica a punti. La corsa sarà nella nostra regione fra due settimane per la terz'ultima frazione da Mortegliano a Sappada. Saranno 157 chilometri lungo i quali, oltre alle forze dell'ordine, saranno schierati anche circa 700 volontari della Protezione Civile e una settantina di militari. Il punto sulla macchina organizzativa è stato fatto a Palmanova. Saranno circa 700 i volontari della Protezione Civile presenti lungo i 157 chilometri del percorso della 19ª tappa del Giro d'Italia, la Mortigliano-Sappada, del 24 maggio. Un supporto fondamentale per consentire un regolare svolgimento della Corsa Rosa nella nostra regione, a cui si affiancheranno, soprattutto nella parte finale del tracciato, una settantina di alpini della Brigata Giulia. Questo quanto emerso nella riunione del comitato organizzatore locale di tappa con i 24 sindaci interessati dal passaggio del giro, tenutasi nella sede operativa della Protezione Civile di Palmanova, presieduta dall'assessore regionale Riccardi, presenti anche il presidente del comitato organizzatore Paolo Urbani e il direttore della Protezione Civile Aristei. Particolari criticità non sono emerse da una prima analisi della situazione. Massima attenzione verrà riservata al passaggio dei girini sul passo Duron, dove la carreggiata presenta alcune strettoie e che dovranno essere monitorate costantemente dagli uomini con la giacca giallo-blu. Amedeo Aristei, direttore della Protezione Civile. Noi siamo a supporto delle forze dell'ordine nel coordinamento della sicurezza. La polizia locale avrà il compito di coordinare nei singoli comuni i volontari. Difficile fare una previsione sull'afflusso del pubblico, dato che il 24 maggio è una giornata lavorativa. Molto dipenderà anche dai risultati sportivi del gigante di Buia, alias Jonathan Milan, e del campione sloveno Tadej Pogacar. Gli organizzatori si aspettano non meno di 40.000 presenze lungo tutto il percorso. Approntato anche un piano di parcheggi nella zona di arrivo a Sappada con 2.500 stalli disponibili ed un sistema di navette. Paolo Urbani, presidente del comitato organizzatore di tappa. Ci saranno dei servizi di bus navetta da Rigolato, Forni a Voltri fino a Sappada e anche verso il versante veneto da Santo Stefano di Cadore fino a Sappada, e quindi ci saranno dei park attrezzati lungo tutti questi tragitti. Palmanova, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Finale di stagione amaro per la squadra maschile della Pallanuoto Trieste, battuta ai play-off anche in gara 2 dalla De Acker Bologna 8-7 ieri sera. La squadra di Bettini non andrà oltre il settimo posto, che ora dovrà comunque contendere al Palermo. Al di là del risultato al di sotto delle attese, è quasi certa l'esclusione dalla prossima Eurocup, che quest'anno aveva dato la meritata visibilità internazionale al club. La società del presidente Samer imposterà comunque nei prossimi giorni, dopo una pausa di riflessione, la nuova stagione in A1 e non sono da escludere variazioni tecniche. Resta dunque il confronto con la Telimar per il settimo posto, la prima partita a Palermo il 22 maggio. Ora parliamo di sport inclusivo, perché si sono aperte le gare della tappa lignanese di Play the Games, i giochi nazionali estivi di Special Olympics. Nella piscina del Bella Vista Village saranno impegnati 300 atleti. Nella piscina olimpionica del Bella Italia Village in corsia ci si sfida ad orso a colpi di bracciate, ma non è una gara qualunque, esulta anche chi non arriva primo. Sugli spalti si scandiscono a gran voce i nomi di tutti e dalle casse risuona musica, clima di festa. Dopo le prove di canottaggio a Sabaudia e prima di quelle di atletica e pallavolo e golf a Pistoia, a Lignano Sabbiadoro fa tappa il nuoto dei giochi nazionali estivi Special Olympics, una 4 giorni che vede coinvolti 300 atleti con disabilità intellettuale da tutta Italia, di tutte le età, una trentina i corregionali. La formula si chiama Play the Games, a rimarcare l'aspetto giocoso che distingue l'associazione benemerita parte del CONI dalle Paralimpiadi, dove invece le gare sono di carattere competitivo. Questa sera alle 18 l'arrivo della fiaccola olimpica. L'anno prossimo a Torino si terranno per la prima volta in Italia i mondiali Special Olympics. È un momento per stare assieme, di amicizia e passione, ci dice Mattia da Varese, in attesa di entrare in vasca per i 25 metri rana. Andrea Di Vercelli sottolinea che oltre alla piscina pratica anche calcio come portiere, bocce e bowling. Qui non interessa il risultato, indica il direttore regionale di Special Olympics, Giuliano Clinori, ma inserire adulti e ragazzi in un gruppo, in società. Per i ragazzi con disabilità intellettiva, conclude, lo sport è un mezzo, non un fine, per socializzare e imparare ad essere autosufficienti. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione del GR è stata realizzata da Lorenzo Gerlinzoni e Giampaolo Mauro, per il coordinamento tecnico grazie a Vassia Krismancic e a Walter Vidonis, grazie a Daniela Sossi che ha collaborato in redazione. 12:57 in punto, prossima edizione alle 15, grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.